Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24. Che cosa sta effettivamente succedendo nella crisi? La crisi c'è, è grave, le banche saltano, la finanza mondiale è inceppata, il credito non fluisce, si trasferisce la crisi all'economia reale. Ma che cosa dentro la crisi sta maturando? Come stiamo vivendo la crisi? Quali antidoti sociali si stanno creando contro la crisi? E dunque come possiamo pensare la crisi evolva? Evolverà nel senso del 29, e cioè il grande dramma sociale diffuso, oppure la crisi evolverà in un'altra direzione? Si arriverà alla ripresa senza perdere il tessuto sociale, senza gravi lacerazioni? Ne discutiamo oggi con Giuseppe Roma, che è il direttore generale di un osservatorio come il Censis sulla società italiana e sulle sue tendenze di sviluppo, un osservatorio molto autorevole, con Francesco Alberoni, che è un celebre sociologo, come molti di voi forse tutti sapete, il quale ha appena ripubblicato un suo saggio in cui riscoprì l'innamoramento negli anni dei grandi movimenti collettivi, dei movimenti sociali, e riscoprì le dinamiche, il significato dell'innamoramento dentro la trasformazione sociale. E ne parliamo con Aldo Bonomi, che è un acuto osservatore di come si sviluppa, di come va, anche lui un sociologo, la società italiana, soprattutto nel nord industriale. Il punto di partenza è molto concreto, una indagine dell'Unità fatta molto bene, in cui la gente è stata chiamata a testimoniare sulla propria vita nella crisi, appunto, come vivo nella crisi. Marco, un piccolo genio, sentite cosa ha scritto all'Unità: compro prodotti direttamente dal produttore, anziché andare a mangiare la pizza o al cinema metto un po' di gasolio nella macchina, vado in campagna a raccogliere quello che offre in questa stagione: funghi, bietole, cicorie, asparagi, rucola, cardi, camomilla, more, corbezzoli, fichi, fichi d'India. Con questi altri prodotti faccio marmellate, confetture sott'olio, evito di comprare tanta verdura, compro cassette di pomodori dal produttore e faccio la conserva per tutto l'anno, faccio la pasta in casa, non mi faccio mancare nulla con una spesa irrisoria. Costa un po' di fatica, ma si mangia da Dio. In due abbiamo un unico stipendio, scrive Marco, di 1000 euro e paghiamo un affitto di 300 euro. Quindi se ci si guasta qualche cosa, prima di farla riparare, prendo tutte le informazioni via internet per ripararmela da solo. Così ho rifatto un bagno, ho riparato il ferro da stiro, il frigorifero, il condizionatore, le tapparelle, eccetera, eccetera. Sono ancora vivo, conclude Marco, e con grande e fine umorismo. Straordinario anche Matteo. Sono studente universitario fuori sede, vivo con 700 euro al mese, mangio riso, patate, uova, verze e legumi a volontà, solo quelli secchi, pochissima carne e pesce. Non ho mai comprato una bottiglia d'acqua, non cambio il telefonino da una vita, vestiti e scarpe solo lo stretto necessario e sempre economici. Vado a correre al parco a gratis, non faccio regali inutili e non voglio riceverne. Sono ipersobrio e contento. Bene, 800 24 00 24, se ci volete dare le vostre testimonianze su come sopportate, come sopporta la vostra famiglia, il vostro reddito, la crisi, come vi organizzate, come la considerate, ve ne siamo grati. 800 24 00 24. Giuseppe Roma, direttore generale della Fondazione Censis. Buongiorno, direttore. Dunque, il capo del Censis, Giuseppe De Rita, celebrato sociologo italiano, che da molti anni ci dice più o meno come siamo, cosa facciamo, come ci sviluppiamo, quali sono le tendenze grandi e anche le micro tendenze della società italiana, ha scritto ieri un editoriale per il Corriere della Sera e ha dato un'intervista al Foglio, nelle quali ha sostenuto: per ora il paese non sbanda, la crisi si redistribuisce con criteri territoriali, con altri criteri focalizzati sui pilastri della società italiana, in particolare la famiglia. Il costo della crisi, le conseguenze della crisi si redistribuiscono in modo tale da creare una specie di equilibrio, di strano equilibrio. Questo è un, insomma, in qualche modo Derrida ha dato un segnale di ottimismo, ha detto che è giusto naturalmente raccontare come fanno i giornali, come fanno i telegiornali, come fanno i giornali radio, tutti i mezzi di comunicazione, il grande disastro di questi mesi, ma è giusto anche leggere dentro il disastro le possibilità non soltanto di sopravvivenza, ma anche di dignitosa sopravvivenza, di ristrutturazione, di cambiamento dei modi di vita della gente. Ci vuole spiegare un po' meglio da che cosa deriva, da quali fonti, da quali elaborazioni di dati deriva questa vostra posizione, questa vostra idea, questa vostra opinione? Ma innanzitutto da una cosa molto recente che ci ha un po' sbalordito anche a noi. Fine gennaio abbiamo interrogato gli italiani anche sul clima di fiducia, abbiamo trovato che la maggioranza degli italiani diceva, guardava abbastanza positivamente i prossimi mesi. E naturalmente questo contrastava totalmente con l'informazione corrente che a tutti noi arriva, dei disastri, soprattutto all'estero, poi alla fine, che sta producendo questa crisi. E abbiamo visto che naturalmente ci sono delle soglie di confidenza, nel senso che chi è il ceto medio che sembra essere meno spaventato, aver una maggiore fiducia nel futuro, naturalmente i bassi redditi continuano a soffrire di più. Allora ci siamo chiesti come mai c'era questo clima di fiducia. La prima spiegazione ci siamo dati è questa: noi a settembre-ottobre ci è cascato il mondo addosso, cioè abbiamo visto che la finanza embrava, praticamente che tutto il sistema finanziario, compreso le nostre banche, dovessero chiudere, fallimento totale, il 29 addirittura una edulcorazione di quello che sarebbe successo. In realtà, come esistono le aspettative positive, cioè ci aspettiamo tanto e riceviamo poco, in questo caso credo che l'aspettativa negativa era talmente forte che a un certo punto ci siamo toccati, abbiamo visto che non è che c'era sangue che grondasse dalle nostre facce, che il pugno magari c'è stato pure, ma che in realtà la nostra vita, la vita della maggior parte degli italiani, in realtà aveva avuto qualche punto di miglioramento. Spiego, intanto dobbiamo dimensionare tutti coloro i quali in Italia hanno a che fare con parlo di famiglie che hanno a che fare con la finanza o che sono stati irretiti, diciamo così, da prodotti, da rendimenti molto elevati, e il numero è molto basso, cioè noi abbiamo 24 milioni di famiglie. Quelli che gli italiani risparmiano, non investono nei titoli atipici in grande maggioranza. Appunto. E poi secondo me abbiamo anche avuto in passato qualche fregatura notevole che ci ha forse anche consentito di anticipare l'uscita dei fondi. Penso alla Cirio, penso a tutte quelle cose. L'Argentina, Parma. E a un certo punto uno aveva già avuto lo shock prima, siccome gli italiani sono prudenti e intelligenti su quello. Anche questa storia dei mutui, l'abbiamo mutui casa, l'abbiamo un po' quantificata. Noi abbiamo 3 milioni di italiani che pagano un mutuo, magari anche vecchio. Di questi sono soltanto due, soltanto, sono anche tanti in numero assoluto, però non fanno tendenza alle 250.000 famiglie che dichiarano di avere qualche problema a restituire il mutuo. Però anche qui noi, come dire, ragioniamo di quello che succedeva l'anno scorso. Ecco, però mi scusi direttore, insomma, ci sono delle affermazioni, a me piace lo spirito, adesso sentiremo naturalmente anche Alberoni, Bonomi, i loro punti di vista, che sono di analisi sociale da un altro su un altro orizzonte, no? Ma a me piace questo spirito che avete, però voi dite delle cose molto forti. Non avete paura che vi possano essere rimproverate tra qualche mese? Per esempio, voi dite c'è la coazione alla liquidità, no? Le famiglie non spendono, i commercianti non rinnovano i flussi di offerta, le banche non erogano, tutti sono più o meno liquidi per quello che possono, hanno risparmiato, sono patrimonializzati, hanno i loro pilastri che sono per il Censis da sempre la casa, la famiglia, il territorio, e tutto è sospeso, diceva Derrida sul Corriere, tutto è sospeso, quasi fermo, nessuno rischia ma nessuno crolla. Ecco, nessuno crolla, non avete paura che vi possa essere rimproverata questa idea che tutto sommato il paese tiene se poi le cose dovessero andare veramente male e un accumulo di disoccupazione, caduta dei consumi, eccetera, poi andrà a lacerare il tessuto sociale? Ma certo, questo è naturalmente un rischio, però chiunque faccia delle previsioni si assume un rischio. Certo. Il punto è che noi stiamo facendo un diario e quindi non pretendiamo di, come dire, proiettare nel futuro questa situazione. Noi vediamo che c'è un paese che è più razionale di quanto non sia stato in passato, o soprattutto con la crisi è più razionale di quanto non è in altri ambiti, penso all'immigrazione, penso ai Rom, dove invece l'emozione è tutto e finisce anche per condizionare dei provvedimenti governativi sull'onda dell'emozione. Quelle due lettere, mi scusi direttore, volevo sentire un attimo il parere adesso di Francesco Alberoni. Professor Alberoni, quelle due lettere che prima ho letto di Marco e di Matteo sono abbastanza notevoli secondo me. Intanto c'è tanta gente che fa così. Sono scritte all'Unità, che dovrebbe essere una tribuna di protesta. Invece sono sobrio, sono contento, mi do da fare, combatto la crisi in questo modo e raccontano la loro vita. Sì, prego. Secondo me c'è tanta gente che fa così, lo farà magari in misura più modesta, ma lo fa, si riprovvigiona in campagna e vi salta alcuni intermediari. Io sto pensando al mio caso, per esempio. Io personalmente non sento particolarmente la crisi, ma però mi sono accorto che in questo ultimo anno e mezzo io ho aumentato moltissimo il lavoro che faccio, ho abbassato i prezzi e ho aumentato il lavoro. Non solo, sto molto attento a tutte le domande che mi vengono poste. Prima le avrei trascurate, adesso le prendo sul serio. Cioè, mi rendo conto che possono essere importanti, può essere una cosa importante e utile per loro. Non solo, ma ho visto che molta gente, al di là del fatto di andare in campagna a procurarsi queste cose, ha aumentato la prudenza. Cioè, proprio recentemente ho scritto un articolo sul Corriere della Sera in cui criticavo la teoria del postmoderno, in cui si diceva, no, se non c'è più il principio di non contraddizione, che la società è diventata liquida, molto, molto interessante, che sì, tutto è uguale a tutto. Non è vero, cioè sarà stato vero un certo periodo, insomma, la fantasia si confonde con la realtà, ma quello che bisogna molto più prudente. Ha ricominciato a scegliere, a calcolare, è diventata più vigilante, a fare previsioni e anche a inventare. Semmai ho notato una grande differenza nelle imprese. I manager scadenti, i manager rigidi, presuntuosi, si trovano oggi in difficoltà perché non sanno inventare. E allora molto spesso rinunciano anche a dei progetti ambiziosi e molto belli perché non sanno adattarli alle circostanze. Cioè, ci vuole poco in fondo, no? Poi a modificare il progetto in modo ereditario. Certo, è come riparare in casa il ferro da stiro, come voglio dire, un il bricolage, diciamo, sociale. Metti in conto che costa 500.000 euro, ne fai un altro che del mai è più divertente, fa un pubblico più grande e costa solo 100.000 euro. È proprio un problema di invenzione e di creatività. Sì. Mentre dunque il professor Alberoni a questo articolo a cui fa riferimento, uscito sul Corriere della Sera il 9 marzo, effettivamente era un articolo così molto acuto, diceva: vabbè, la società cosiddetta postmoderna, diciamolo in modo semplice, è una società in cui, diciamo, l'immagine conta più della sostanza, della realtà. Una società in cui tutte le verità si intrecciano, le interpretazioni contano più della realtà oggettiva, quindi perde di importanza lo Stato, allo stesso welfare state non si capisce se ce ne sia veramente bisogno. Questo è il quadro nel quale si è sviluppato questo modello di interpretazione dei nostri tempi, no? Il postmoderno. I cittadini ci sono, sì, ma non contano tanto in quanto cittadini, contano in quanto consumatori. È una specie di grande reality show, un po' provvisorio, no? Liquido, la società liquida, come si dice, no? Ci si arricchisce, si ha successo nel breve, non si programma, domina l'individualismo e l'edonismo. Questa è la tesi di Alberoni. Questa roba qui è spazzata via, dice lui. Adesso è proprio finita. Sì, è finita, perché invece tornano le realtà sostanziali. Non è che si illudono che tornerà in altro modo, perché in realtà la fantasia c'è sempre. Ma questa società è finita, la gente non si comporta più così, neanche le imprese, almeno quelle che sono dissennate. Non solo, ma anche negli oggetti. Non è che la gente non compra gli oggetti, però adesso prende degli oggetti che sa usare, come quel ragazzo là sapeva riparare. Certo. Se io ho un cellulare, non lo cambio 20 volte a prendere uno che non so usare, lo comprerà il ragazzino come gioco. Certo. Noi impariamo a usare meglio gli strumenti che abbiamo. Sentiamo Fabio da Roma, professor Alberoni, e Aldo Bonomi, poi veniamo dalle grandi macro sociologie alla sua micro sociologia del territorio, che è molto interessante. Fabio da Roma, prego. Sì, pronto, buongiorno, dottor Ferrari. Eccomi. Allora, io intervenire riguardo appunto questo tipo di crisi economica, facendo un piccolo paragone con appunto i miei genitori e io, no? Esempio, c'è una mamma che abita comunque a Roma, che c'è una casa di proprietà e quant'altro, ha un piccolo reddito che comunque è intorno, diciamo, ai 1000 euro, 800 euro, 900 euro. E io invece che vivo in casa in affitto e comunque sono un consulente, guadagno molto di più e comunque vivo in affitto e c'ho un figlio. Secondo lei chi è che sta meglio in questo momento specifico? Mia madre che c'è un piccolo reddito e c'è una casa di proprietà, o io che invece appunto guadagna in questo meglio momento ma stai specifico? In affitto. E non lo so, me lo dica lei, me lo dica lei. Credo che sia meglio in questo, no, perché c'è questo conflitto generazionale, quindi con le persone che in realtà si sono potute permettere in un tempo, diciamo. Sta meglio chi è più solido patrimonialmente, chi ha meno preoccupazioni, no? Questo chi ha meno preoccupazioni, dire. Anche se prende di meno, anche se guadagna di meno, certo. Questo è interessante. È sicuro, insomma. Invece, grazie, appunto, Fabio. La mia... Grazie, prego. Grazie molto. Patrizio da Bologna. Eccomi. Senta, io volevo semplicemente fare una piccola considerazione. Trovo assolutamente assurdo il fatto che il governo faccia questa demagogia mettendo in giro queste social card e poi anche il fatto che si parli troppo di questo fatto che la gente deve risparmiare i 10 centesimi qui, i 30 lì. Ma insomma, anziché avere questa implosione... No, veramente il governo invita a spendere, eh? Il governo sì, dice sempre questo è vero, però il problema è che la gente invece fa un discorso opposto, cioè cerca di risparmiare. Ma io dico, ma per quale motivo il governo non fa quello che deve fare, cioè combattere l'evasione fiscale come si deve? Hanno ridotto ultimamente il potenziale alla Guardia di Finanza. Vai a guardare su internet i dati, sono mostruosi i livelli di evasione, ma dico perché dobbiamo continuare ad avere una politica di frustrazione sociale dove dobbiamo sempre subire tutti il fatto che ci sia la gente che insomma non si può assolutamente darle torto, però il tema della trasmissione, grazie, è come viviamo dentro la crisi e adesso ne parleremo con Aldo Bonomi, che ha scritto anche lui un articolo straordinariamente interessante. Bonomi ha preso Trento e la provincia di Trento, dove c'è una regione autonoma che spende un sacco di soldi, spesa pubblica forte, il 5% del prodotto interno lordo della provincia, quindi la provincia autonoma di Trento spende molto per sostenere l'economia. Poi ha preso Verona, insomma il Triveneto, diciamo, quello che in sociologese si chiama il nord-est. Verona, anche quella è dura, diciamo, da spiantare, regge alla crisi nelle forme che adesso poi Bonomi ci racconterà, e perfino Vicenza che ha più problemi. Comunque il cannocchiale messo sulle micro situazioni nelle quali si capisce bene come si comporta l'artigiano, il piccolo imprenditore, il lavoratore dipendente, quello autonomo, eccetera eccetera. Dopo la pubblicità con Aldo Bonomi una breve riflessione su questo: come stiamo dentro la crisi anche nel piccolo, visti al microscopio. 800 24 00 24, diteci come affrontate la crisi, come pensate che si debba affrontare la crisi anche dal punto di vista degli stili di vita. Bonomi, lei ha detto che a Trento, nella provincia di Trento, con i quattrini della regione autonoma si fanno miracoli di sostegno, e che a Verona dicono: ah, ma qui a Verona non siamo mica come a Brescia, dove sono fatti intrappolare dalla finanza. Noi abbiamo ancora l'agricoltura, l'artigianato, la microimpresa, ci crediamo, non siamo mica andati presso i titoli atipici. Lei condivide le cose che hanno detto Giuseppe Roma e Francesco Alberoni, e cioè sostanzialmente da un lato il paese non sbanda e dall'altro è finito un certo tipo di società liquida e la gente torna al solido, al concreto, alla sobrietà? È d'accordo su questo? Ma direi che sono d'accordo che si ritorna ai fondamentali. Per partire dalle due lettere all'unità, sì. Un primo modo di ritornare ai fondamentali di quei due ragazzi che hanno scritto Marco l'unità, e Matteo, sì. Marco e Matteo, e che, se posso fare una battuta, è come se si cerca di tenere assieme due opposti e si dice: io metto assieme Latouche, che per capirci è il teorico che ha scritto il manuale sulla decrescita, sui comportamenti sobri dentro il capitalismo dei consumi spinti, sì, e Berlusconi. Sì. Cioè si dice: io mi muovo con comportamenti di sobrietà, chilometro zero, cioè acquisto le verdure in campagna. Beh, Berlusconi è diventato questo, molto eccetera, sobrio, pare che non abbia neanche messo in moto il vulcano quest'estate. Sì, esatto. Molto mentre sobrio. Invece da una parte la sobrietà e dalla parte l'invito del Presidente del Consiglio a continuare a consumare, perché il consumo è il motore dell'economia. I soggetti sociali prudentemente mettono assieme questi due opposti nei loro comportamenti, sono un po' sobri e un po' consumi, un po' verso la decrescita e un po' verso la crescita, un po' verso il nuovo sviluppo e un po' verso il limite. I comportamenti sociali micro sono questi, che sono confermati anche dai comportamenti territoriali. Nei territori si ritorna ai fondamenti. E quindi, ad esempio, nel nord-est io ho scritto che c'è un orgoglioso risentimento. L'orgoglioso risentimento dice fondamentalmente questo in prima battuta: ve l'avevamo detto. Vi avevamo detto di tener presente il territorio, l'economia reale, di non montarvi la testa nell'economia dei flussi, nella globalizzazione, e bisogna tornare, dicono loro, ai trittico che ha permesso di arrivare a questo benessere: la famiglia, l'impresina e il campanile. Che poi questo basti è il grande punto interrogativo, però ovviamente nei territori il ritorno ai fondamenti dice fondamentalmente che a Trento, siccome ho l'opportunità di avere una provincia autonoma, utilizzo gli 860 milioni investiti dalla provincia autonoma per affrontare la crisi, e lì si riesce a risolvere ad esempio un problema che attanaglia le parti sociali e il dibattito governativo nel resto del paese, che è quello come ci si occupa e si dà solidarietà ai precari. Lei dice una cosa curiosa, Bonomi, in quell'articolo che citavo del primo marzo sul Sole 24 Ore. Lei dice: ci sono segni di un nuovo vitalismo anche attraverso i comportamenti degli enti locali territoriali o delle regioni, no? Tutti si mobilitano. E poi lei dice: le rappresentanze danno senso alla famosa retorica del fare sistema, cioè aiutarsi gli uni con gli altri, integrarsi, costruire, diciamo, un intreccio dinamico di promozione delle risorse, degli investimenti, che paradossalmente era una parola vuota ai tempi delle vacche grasse, il fare sistema, e diventa un fare società di mezzo. Questa è la formula che lei usa nel suo raffinato sociologese: fare società di mezzo in tempo di crisi. Che vuol dire questo? Ma una cosa semplice, che quando il presidente Montezemolo, nei tempi in cui rampanti cercavamo di conquistare i mercati globali, diceva mettiamoci tutti assieme per conquistare i mercati, ovviamente ognuno andava per sé e Dio per tutti. Quando c'erano le opportunità, tutti alla ricerca delle opportunità, e questo paese, diciamolo, non è che abbia mai fatto sistema potente nella globalizzazione. Molti più bravi tedeschi da questo punto invece di vista. Nella crisi siamo più bravi degli altri, questa sarebbe l'idea. Cosa è successo? Nella sì. Crisi... Sentiamo un attimo Marcella da Como. Marcella. Buongiorno, dottor Ferrara. Buongiorno. Io chiamo per portare la mia esperienza, che chiaramente, essendo sempre lo stipendio uguale a se stesso, ci costringe a andare a cercare alternative presso le fabbriche, negli spacci quelli aziendali veri, dove poi scopri che la scarpa che tu paghi 40 euro nel negozio sotto casa è esposta a 220 euro a parità di marca. Oppure cambio di vestiti con le amiche, quindi il vestito che io non metto più. Ho visto, questo c'era anche sull'Unità nell'inchiesta, sì, okay. I vestiti comprati è in comune girati. È molto vero. E poi un grande tam-tam per poter essere sempre lì dove c'è un'offerta, una promozione, qualche cosa, tam-tam tra le amiche. Grazie Marcella. Passiamo a Salvatore da Roma, che segnala un'altra anomalia, un'altra stranezza. Quelli che hanno un vantaggio dalla crisi. Salvatore. Pronto? Sì, eccomi. qui, buongiorno a tutti. Ma buongiorno. Io ritengo che il dipendente pubblico, chi prende uno stipendio fisso in questo periodo, stia avendo dei vantaggi dalla crisi. 100-150 euro al mese di riduzione del tasso sui mutui. La benzina, io ho fatto ANAF da adesso, io faccio l'imprenditore, ahimè. Ho fatto ANAF da adesso, ho speso 95 centesimi. Faccio l'imprenditore, ahimè, con invidia per la vita dell'impiegato, non è male, la crisi anche questo. In questo momento sì, perché io vedo l'impiegato della mia banca che è terrorizzato. Beh, poi le bollette diminuiscono, Sì, ma guardi, l'impiegato della mia banca che è terrorizzato, che preso dal panico, che non riesce a gestire situazioni banali, perché c'è la crisi, perché le sirene del va tutto male continuano a insistere, a farsi sentire forte. Per non parlare dei vari Almuni, eccetera, ripartiremo nel 2010, nel 2011. Non è vero, ripartiremo a settembre, quando ci sarà il primo dato che dirà più 1% sull'anno scorso. Va bene, lei è un imprenditore ottimista e ci ha segnalato un'altra anomalia. Roma, vede, Salvatore dice che l'Italia non sbanda, in effetti, anzi addirittura dice qualcuno se la cava meglio di prima. Qual è il suo commento, direttore? Questo è evidente, perché noi avevamo già prima un problema di mantenere il tenore di vita. Negli ultimi sei mesi abbiamo i prezzi che sono scesi, non solo la benzina con tutto quello che ne consegue, anche i viaggi, anche di lavoro, mica solo turistici, insomma ormai con 80 euro si gira l'Italia, forse meglio che in treno, in aereo, le offerte. Allora io però volevo intervenire su questo, sì. L'idea non è tanto che l'Italia stia tornando indietro, può darsi, perché abbiamo detto lo scenario è molto aperto, ma noi non vediamo un'Italia che torna indietro e non vediamo un'Italia solo sobria, perché questa è una cosa, il low cost eccetera, che c'era già prima, quando certo. Il problema dell'Italia era il problema che il reddito non cresceva e i prezzi invece salivano. Noi abbiamo invece individuato un altro tipo di comportamento molto vicino a quello che diceva Alberoni, cioè della temperanza, cioè si screma quello che non è utile, ma non si rinuncia al modello di consumo, si cerca di far quadrare i conti mantenendo un modello di consumo abbastanza elevato. E anche Aldo, non è che oggi i territori che... Aldo sarebbe Aldo Bonomi, Aldo Bonomi, lo dico per gli ascoltatori. Non è che prima. I territori tornano indietro al vecchio localismo, perché quello è morto abbastanza definitivamente, e invece oggi nessuno dice che l'Italia delle imprese, anche delle imprese di territorio, quelle piccole, micro e quelle medie naturalmente, è l'unica cosa che è competitiva in questo paese. Per esempio, scusi, a proposito di competitività delle imprese, della loro capacità di cambiare, di ristrutturarsi, io volevo fare una domanda. C'è chi dice che, a parte che è una polemica di oggi, si dice sì, le ore non lavorate sono moltissime, ma siamo ancora molto lontani dai picchi della cassa integrazione del 1984, cioè di una fase in cui si stava tra la deriva dell'alta inflazione e la grande ripresa produttiva, economica e finanziaria. Allora, insomma, c'è chi dice che la cassa integrazione è cominciata, mi pare l'abbiate detto proprio voi, prima della crisi, già in settembre, già in ottobre, e che è cominciata perché in realtà gli imprenditori hanno preso la palla al balzo della crisi imminente ancora prima che cominciasse realmente come crisi dispiegata della finanza e si trasferisse all'economia reale, per ristrutturare, cioè l'uso degli strumenti di crisi per ristrutturare i distretti, le imprese, eccetera. È vero? Certo, ma non solo, ma c'è stato un enorme processo di ristrutturazione che è iniziato ancora molto prima. Se noi confrontiamo il 2008 col 2007, vediamo che c'è un picco sulla cassa integrazione. Se noi confrontassimo il 2006, il 2008 è andato come il 2006, grosso modo. Adesso questo non voglio dire che non ci sono crisi, ieri certo. L'Indesit ha chiuso a Torino, ma quello che voglio dire è che il nostro sistema di imprese ha capito che cos'è la globalizzazione e si è internazionalizzato. Chi non si è internazionalizzato sarà spazzato via, come è stato già spazzato via. La ristrutturazione in campo industriale, parlo di industria, è la cosa che va meglio in Italia, solo che purtroppo è solo un quarto della nostra economia. Il vero problema noi non ce l'avremo nell'industria di cui si parla, perché c'è la cassa integrazione, che è un ammortizzatore sociale sindacalmente riconosciuto. Certo. Perché in realtà il vero problema che noi ci troviamo, secondo me, da un punto di vista strettamente di competizione, quindi di economia che funziona, e nei settori invece terziari, e lì il vero, nessuno parla del turismo. Allora, un attimo, direttore, ne parliamo dopo del turismo. Alberoni, dove metterà a capo questo cambiamento di mentalità che lei ha segnalato? Io volevo segnalare una cosa nuova di cui poco si parla e che per me è decisiva. È aumentata per la prima volta dopo 40 anni la serietà nella scuola. È come se ci fosse stata un'inversione ad U nei rapporti insegnanti-allievi, in generale nell'educazione. La scuola italiana, soprattutto la scuola media superiore, era diventata una cosa vergognosa e indecente, in cui gli insegnanti erano oggetto di ludibrio, di scherzi e di ricatto da parte degli studenti. A questo punto la tendenza si è invertita. Io leggo molti libri, perché mi mandano decine di libri ogni settimana scritti da giovani. È un quadro incredibile. I giochi che facevano sono una cosa vergognosa e inimmaginabile. Questo quadro è cambiato. È cambiato perché in questo momento si sta ricominciando a mettere in moto un sistema educativo che era stato sfasciato. E gli effetti ci sono già. O io credo che questo cambiamento, che io vedo poi nel mio campo, centro sperimentale di scenografia, con i miei allievi, con le riforme che faccio, andrà avanti. Di conseguenza avremo una generazione che non è più quella generazione sfasciata che ci troviamo adesso negli ultimi anni, perché poi fanno presto i giovani. Cioè nella crisi si ritrova un fine e un significato alle cose che si fanno, perché certo, ci si tempra, ecco, questo sarebbe la voglia di fare, smettono di fare le cretinate, prendono sul serio le cose. Magari, ma sarebbe magnifico. È un cambiamento di atteggiamento fondamentale. Un momento, professor Alberoni, le strade in diretta e poi riprendiamo. Grazie. Nella crisi ognuno reagisce a suo modo. Nell'inchiesta dell'Unità c'è GP, per esempio, che dice: rinuncio ad avere un figlio, non me lo posso permettere con il lavoro precario che ho. Invece c'è Francesca che dice: vogliamo un figlio, non sarà la crisi a farci rinunciare al nostro unico vero sogno. Ognuno reagisce come crede, come può. Maria da Roma. Maria. Buongiorno. Sì, io vorrei dire che questa crisi per noi non ha cambiato niente, i nostri stili di vita sono rimasti uguali a quelli di prima, perché noi non siamo mai andati all'estero, non andiamo mai in albergo, andiamo al mare e un giorno andare e ritorno e torniamo a mangiare a casa, prendiamo la pizza, prendiamo quella a taglio, prima la faceva mia madre, adesso mia madre non c'è più. Prendiamo quella a taglio, un netto, due etti, ce la portiamo a casa, ce la gustiamo e ci leviamo lo sfizio. Paghiamo 750 euro al mese di affitto, però non è sempre uguale. Il mese scorso sono arrivati 920 euro, questo mese sono arrivati 850, speriamo che il prossimo mese tornerà come prima a 750. Va bene, molti auguri Maria per una vita di sobrietà da sempre, questo è quello che lei voleva segnalarci. Matteo da Como, a proposito della domanda che facevo prima a Alberoni, dove mettere a capo questa mentalità nella crisi, diciamo, per affrontare la crisi? Matteo. Lei è uno psichiatra? Sì, la sento. Senti, io sono un medico psichiatra, lavoro qui al nord. Sì. Io devo dire che... Lei dice che sa qualcosa sulla psiche collettiva, sulla psiche delle persone nella crisi. Direi che la situazione attuale è affascinante, nel senso che io mi meraviglio, diciamo, di come la psicologia collettiva riesca a far fronte a una situazione del genere senza creare delle reazioni anche più consistenti, perché io percepisco un diffuso disagio sociale, soprattutto in relazione al fatto che c'è la percezione che qui il danno è stato fatto a livello, diciamo, di entità, come dire, finanziarie, e le conseguenze di tutto ciò si riversano invece a livello della gente, della popolazione, del lavoratore, che sia nel sistema sanitario, autonomo, dipendente, tutti insomma. La gente non capisce, subisce, diciamo, secondo me, passivamente, e io direi che questi inviti prudenti, alla sobrietà, al risparmio, sono un qualcosa di, secondo me, di non accettabile. Quindi l'opinione pubblica deve essere nelle condizioni di capire succede. Certo, certo. No, no, gli inviti alla sobrietà sono più che altro testimonianze, nessuno invita nessuno a fare niente di particolare. Marco da Ferrara, Marco, grazie Matteo. Sì, Marco da Ferrara. Buongiorno. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno. Sono in macchina, ecco mi sono fermato. Niente, io volevo dire questo, molto semplicemente, non è che ci sia una crisi come la dicono, è più una paura di questa crisi. E adesso siamo in un regime drogato, eravamo in un regime drogato secondo me prima, adesso stiamo andando al regime normale. Quindi anche parlare sempre di questa crisi, togliere la speranza, è sbagliato secondo me, perché poi non è proprio così vera che c'è tutta questa crisi, c'è sicuramente, ma che ha creato questo regime drogato di prima è stato il credito al consumo, tutti prendevano tutto a rate, cioè questo è stato un errore, ecco, un errore per le famiglie, il telefonino, il registratore, la macchina, la bicicletta, il motorino, chi più ne ha più niente, va bene. Della canca a rate. Grazie Marco, grazie. Bonomi, che cosa dice a un sociologo come lei, attento alle ricognizioni anche parziali, questo fatto che la social card, ne parlammo in una precedente trasmissione, cioè insomma questi 40-50 euro per la quarta settimana per le persone diciamo in situazione di indigenza è arrivata a meno della metà dei titolari, cioè poi alla fine insomma non c'è stata la corsa, non ci sono state le file a questa possibilità di fare una bella spesona nella quarta settimana del mese per chi non ha soldi. Che vuol dire? Ma mi dice due cose. La prima, che i soggetti sociali, come abbiamo visto, le persone, in primo luogo si sono rivolti alla famiglia e alle loro reti. Quindi, ad esempio, funzionano molto di più e hanno molto più attivato i gruppi di acquisti solidali, oppure l'intervento della signora prima che dice: ma io non ho cambiato niente, la mia pizza, i miei comportamenti, i miei consumi, e ovviamente come welfare in prima battuta ci si è rivolti alle famiglie. Su questo sono molto d'accordo con quello che ha detto De Rita, che è uno dei fondamentali a cui ci si è rivolti. Attenzione però, l'altra cosa è che dentro la crisi vengono scremati alcuni comportamenti indotti che c'erano prima. Se posso fare una battutaccia, io ho capito che c'era qualcosa che non funzionava quando mi sono accorto che i brianzoli prendevano il credito al consumo per andare a fare le vacanze alle Seychelles. Okay. Beh, qui c'è stato qualcosa che si era rotto in quei meccanismi sociali virtuosi rispetto a questo. Grazie al professor Bonomi, grazie al direttore del Censis Roma e al professor Alberoni. Siete stati, mi sembra, molto, molto puntuali nel descrivere una situazione. Abbiamo detto che si sta tenendo un diario, non si fanno previsioni. Le cose potrebbero migliorare rapidamente o peggiorare rapidamente, oppure andare su una lenta deriva. Oggi però la situazione è complicata, più complicata di come la si descrive quando si parla, diciamo, in modo generico e allarmistico di crisi apocalittica. L'Italia non sbanda oggi, e per quanto riguarda Alberoni addirittura ci sono degli elementi di controtendenza e di speranza, soprattutto nella mentalità della gente che si rivela nella scuola, nel sistema dell'istruzione. Grazie a tutti voi. In redazione Franca Fossati, Gloria Guerrera, in regia Alessandro Chiappini, Giorgio Mattei, linea al GR, poi Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. Arrivederci a lunedì prossimo, baci, buon fine settimana. Parliamo con l'elefante.